Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. AOL Wing, we've done it to count. South to take it out. That's me ratty, Lonu. Anyane, Torivit. Forget the wrong tea, Wells TF Tau. Quest'ultima voce era quella della regina dei Navi, mentre la prima era quella del suo guerriero più abile e coraggioso. Nella puntata della scorsa settimana vi abbiamo raccontato degli aspetti più tecnici e scientifici del film Avatar, da un paio di giorni in programmazione nelle sale italiane. Oggi, in apertura di questa nuova puntata di Mebius, volevamo farvi sentire il linguaggio dei Navi, il popolo che vive su Pandora. Io posso dirvi in Navi Mipazizit Lepfom Gauru, che vuol dire buon anno, augurio che ci sta ancora dopo sole due settimane di questo 2010. Benvenuti e benvenute a Mebius, ascoltiamo i titoli di questa puntata. C'è un ragno che è diventato vegetariano. È un buon modo per inaugurare l'anno della biodiversità. Il boato che precede il terremoto. Anche ad Haiti l'hanno sentito. Da cosa è generato? Si chiamano interferenti endocrini e sono molecole che ingannano le nostre cellule. Non c'è bisogno di alzare la voce se si vuole comunicare con chi è vicino. Lo fanno anche le balene blu. La fisica della scalata. Tecniche e procedure per arrampicare in sicurezza. Il quoziente di non intelligenza. Forse sarebbe meglio definirlo così, perché di intelligenza ne misura ben poca. Il quiz, quello vero, solito, arriverà dopo. Adesso avete un piccolo quiz che dovete risolvere in pochi secondi, perché Chiara Albicocco sta per parlarvi del Bagheera Kiplingi. Bagheera Kiplingi, dovrebbe venirvi in mente qualcosa, sentiamo. Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ci son lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le formiche, un foglio me ne mangerò. Tu mangi le formiche? Puoi dirlo forte, e che bel pizzicorino ti fanno dentro. Lui non mangia le formiche, ma ha una stretta relazione con i simpatici personaggi del Libro della Giungla, e quella che abbiamo in sottofondo è la famosissima colonna sonora. Lui, cioè quello di cui vogliamo parlarvi questa sera, si chiama Bagheera Kiplingi. Ricordatevi il nome, perché tra poco capiremo perché è così legato a Mowgli e agli animali della giungla. Lui, dicevo, è il primo ragno vegetariano al mondo. Questa notizia è arrivata proprio negli ultimi giorni del 2009 e noi abbiamo deciso di inaugurare il 2010, che è appunto l'anno della biodiversità, con questo animaletto un po' speciale e curioso, adesso vedremo. Infatti la notizia di questo ragno vegetariano ha fatto saltare sulla sedia gli aracnologi, cioè gli studiosi di aracnidi, dei ragni. E appena anche noi abbiamo appreso la notizia della scoperta, abbiamo chiamato il nostro esperto di ragni, che è anche divulgatore scientifico, il nostro Emanuele Biggi. Buonasera Emanuele. Buonasera a tutti, ciao. Beh, sì, sapendo che effettivamente i 40.000 e più specie di ragni esistenti al mondo sono tutti, si pensava tutti carnivori, allora, quando ho sentito dire, quando sono andato a leggere che l'esistenza di questo ragno, che a quanto pare è soprattutto vegetariano, beh, un bel salto sulla sedia sicuramente l'ho fatto. Ecco, com'è possibile che un ragno, da che noi sappiamo sono sempre stati carnivori, diventi vegetariano? Per che cosa? Per adattarsi probabilmente all'ambiente, per adattarsi all'habitat circostante? Sì, infatti chi si occupa di ragni, chi si è occupato di questa ricerca nello specifico, e chi poi, come tutti gli ambienti scientifici, ha commentato questa notizia, questa scoperta, si è riferito a questo fatto, questo fenomeno, come monofagia facoltativa, più che a una scelta obbligata della specie. E questo è abbastanza tipico nei salticidi, che sono dei grandissimi cialtroni, sono dei grandissimi sfruttatori delle opportunità, proprio come i grandi felini, anche se vogliamo, come fanno le tigri che si occupano di mangiarsi le prede che più hanno in abbondanza dove vivono. Beh, lui ha scoperto che appunto c'era questa fonte di cibo di derivazione vegetale, disponibile comoda. In grandissime quantità, comoda. Lui doveva praticamente fare come nell'antica Roma, allungare il braccio e prendere il raspo d'uva, in questo caso allungare la zampa e prendere i corpi beltiani di una particolare specie di acacia. Ecco, infatti questo ragno vive sopra questi alberi di acacia, che hanno questi corpi, queste estremità, diciamo, delle foglioline molto ricche di proteine che possono appunto sostituire la dieta carnivora. Esatto, in pratica ha scoperto questo ragno che esisteva questo mutualismo fra una formica, in pratica, una specie di formica si intende, e queste acace. Le formiche proteggono questi alberi da qualsiasi tipo di intruso che volesse mangiarsi, per esempio, le foglie, e li ricompensano in pratica regalandogli, si può dire, un posto dove vivere all'interno delle proprie spine e del cibo, che in questo caso sono dei corpuscoli sulle foglie, appunto, chiamati corpi beltiani, e che sono ricchissimi di lipidi e proteine, e quindi sono chiaramente dei mini fagioli pronti all'uso anche. Beh, quindi, per un ragno che se ne possa approfittare. Perché fare fatica se sono così comodi, in effetti? Sì, infatti, diciamo che un po' di fatica in realtà la fa, perché in natura niente è veramente regalato. La sua fatica consiste nel praticamente agire come una spia e quindi scappare, non farsi vedere dalle formiche, non farsi accorgere della presenza. Ah. Infatti, in realtà un po' di fatica c'è, perché le formiche non gli rendono certo la vita facile. Se venisse scoperto, chiaramente sarebbe in qualche modo mandato via o scacciato, anche in malo modo. Quindi lui cerca sempre di saltare di foglia in foglia, cercando di non farsi vedere e andando su quei rametti dove le formiche ancora non sono arrivate, quindi dove ha tempo di staccare un corpo beltiano e scappare lontano. Beh, insomma, un po' di competizione, un po' di sana competizione ci deve essere, diciamo. Sì, dai. Emanuele, tu sei fotografo naturalista, chi fosse curioso può vedere le tue foto, hai fotografato tantissimi ragni, il tuo sito è anura.it. Ti è mai capitato di imbatterti in una baghera kiplingi? No, purtroppo no, in realtà mi sono occupato spesso di salticidi, quindi di ragni saltatori parenti del baghera, anche in altri continenti, non solo in quello europeo. Purtroppo baghera kiplingi non l'ho mai visto, anche se mi sarebbe potuto capitare, visto che ho fatto diversi viaggi in America del Sud. Perché vive nella zona centrale, vicino, sì, al Messico? Centro Sud America, è okay. Presente anche in Sud America, ma questo fenomeno è stato studiato prevalentemente in Messico. Ecco, e ora veniamo ad una vera curiosità. Tu prima ci dicevi che un po' assomigliano ai grandi felini, e infatti Baghera è il nome della pantera del libro della giungla di Kipling. E allora qui a questo punto ci spieghi la meraviglia di questo nome. Sì, questo è, secondo me è un po' un omaggio che è stato fatto appunto a questo personaggio dei libri di Kipling, di Kipling, perché proprio questi ragni hanno la particolarità, e sono unici al mondo, non solo Baghera ma tutti i salticidi, perché sono gli unici ragni al mondo, e fra i pochissimi aracnidi potremmo dire anche, che cacciano totalmente a vista, senza usare altri sensi che potrebbero essere il tatto o comunque trasmissione di contatti chimici, fisici con l'ambiente, come tigri nel folto della foresta, nel loro caso nel folto dell'erba. Come i grandi mammiferi, certo. Esatto, quindi è stato dedicato questo nome probabilmente proprio perché questo ragno comunque, che cattura anche in parte prede tipo invertebrati, insetti, altri ragni della sua specie addirittura, e le larve delle formiche quando riesce, è stato dedicato questo nome proprio per la somiglianza con questo grande felino che è la pantera nera, in questo caso quella del libro della giungla. E che abbiamo visto poi tutti nel cartone di Walt Disney. Va bene, Emanuele, grazie davvero per questa bella lezione di biodiversità, e la prossima volta che c'è qualcosa, qualche nuova scoperta, qualche nuova specie, speriamo, ci risentiamo. Certamente, ciao a tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eccoci al nostro gioco, e questo è il quiz vero. Dunque, oggi il quiz cambia, non ci sono più tre risposte possibili, dovete semplicemente scrivere un numero che deve essere quello giusto e che è la risposta alla seguente domanda, state bene attenti. Una mazza e una palla da baseball costano insieme 11 euro. La mazza costa 10 euro più della palla. Quanto costa la palla? Come sempre, la risposta dovete inviarla via SMS al 349 238-6666. Che cosa si vince? Il libro, come sempre, Quanti calzini fanno un paio? Le sorprese della matematica nella vita di tutti i giorni. Questo è il titolo del libro, scritto da Rob Eastaway, edizioni Dedalo. In collaborazione con IBS.it. Stiamo tutti seguendo in queste ore, in questi giorni, la tragedia del terremoto ad Haiti, una tragedia che sembra non avere confini. Dal punto di vista scientifico-tecnico, fra l'altro nell'anno che è appena passato, noi per la vicenda del terremoto all'Aquila abbiamo qui a Möbius affrontato tanti aspetti del terremoto come fatto naturale, quindi non ritorneremo certo adesso a rivederli, ne abbiamo purtroppo appena parlato e parlato abbondantemente. Mentre invece c'è una particolare fenomenologia del terremoto che dalle testimonianze raccolte, le prime proprio testimonianze raccolte fra la gente nell'isola, è abbastanza singolare, sulla quale vogliamo fare chiarezza e per farlo abbiamo ospite questa sera Patrizia Tosi. Buonasera Tosi. Buonasera. Ricercatrice presso l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e ricercatrice specializzata in un'area di studio dei terremoti che ha a che vedere con la produzione di suoni, no, di rumori da parte del terremoto. E proprio questo, ciò a cui mi riferivo poco fa, dicendo che in alcune prime testimonianze raccolte, trasmesse dai telegiornali, abbiamo sentito gente dire che il primo segnale che hanno ricevuto è stato un grande boato e poi immediatamente ha incominciato a muoversi tutto, a traballare la terra. Credo che per il pubblico in generale, non addetto ai lavori, sia facile pensare che quel boato sia generato comunque dalle rovine, da cose che crollano, mentre invece non è così, no, Patrizia Tosi? Esatto, perché il rombo sismico, così viene chiamato questo suono associato al terremoto, è causato dal passaggio delle onde sismiche nel terreno e da come queste si trasmettono all'aria, producendo un caratteristico suono, diciamo quasi sempre associato ai terremoti, un suono molto cupo, molto basso, e che diciamo già da tempi antichissimi è stato descritto. Questo suono però arriva prima che la terra tremi. Esatto, questo suono è sempre associato alle onde sismiche, ma c'è una prima parte delle onde sismiche, diciamo le onde sismiche più veloci, chiamate onde P, che sebbene producano il suono, perché fanno comunque vibrare il terreno come un immenso altoparlante, quindi trasmettono questo suono, questa onda, questa vibrazione all'aria, non producono però uno scuotimento sensibile per le persone. Certo, è uno scuotimento che viene comunque avvertito, che viene comunque registrato dagli strumenti, ma solitamente appunto non viene avvertito dalle persone, mentre le persone avvertono lo scuotimento molto più intenso generato dalle onde sismiche che passano subito dopo, chiamate onde S, come appunto seconde, perché arrivano un po' più tardi, o anche dalle onde superficiali, che sono ancora più intense. E sono quelle che scuotono la terra. Ma lì è proprio come avere un autoparlante rovesciato, e quando noi andiamo vicino, no, agli autoparlanti, per esempio nel caso dei concerti, vediamo che c'è un cerchio, no? un cono che vibra. È una cosa del tutto analoga, la terra funziona in quel modo. Esatto, perché la terra appunto con il passaggio dell'onda sismica vibra, cioè si comprime, e questa compressione e dilatazione della terra, appunto questo movimento in su e giù della terra, viene trasmesso all'aria creando appunto un'onda sonora tipica. Il problema è che non abbiamo registrazioni di queste cose, c'è qualcosa di molto spurio, però certo è facile capire il perché, insomma non è che si può tenere registratori eternamente accesi. Esatto, esistono poche registrazioni casuali, diciamo, di registratori che erano in funzione al momento in cui avveniva il terremoto, e allora si sente, insieme al resto della registrazione, si sente questo rumore molto cupo. E tra l'altro questo rumore, diciamo, solitamente si avverte così, come un rumore molto basso, simile a un tuono, ma a volte può essere anche differente, questo in dipendenza a come è fatto il terreno, se ci sono degli edifici, come vibrano, e quindi si può avvertire in modo anche molto diverso. Ad esempio viene descritto come un frusciare del vento, oppure lo scroscio di una cascata. Dipende proprio dalle situazioni ambientali in cui avviene il terremoto. Esatto, sì. Patrizia Tosi, grazie, buonasera e buon lavoro. Buonasera, grazie a voi. Interferenti endocrini, nome molto serio, scientifico, sono molecole e la loro caratteristica è essere subdole. Infatti ingannano le nostre cellule. Ascoltate Barbara Galavotti. Si è aperta con una conferenza stampa presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza del ministro Ferruccio Fazio, la campagna Amico Andrologo, pensata per sensibilizzare i ragazzi sulla necessità di aver cura del proprio apparato sessuale e riproduttivo. Infatti i medici registrano un aumento di diverse patologie legate all'apparato sessuale e tra queste l'incremento dei tumori ai testicoli. Secondo gli esperti, all'origine del problema ci sarebbe un'insidiosa forma di inquinamento ambientale, gli interferenti endocrini. Si tratta di molecole che ingannano le nostre cellule in maniera particolarmente subdola. Parliamo delle loro caratteristiche e del loro meccanismo biologico con Andrea Lenzi, professore di andrologia all'Università di Roma Sapienza e coordinatore della campagna Amico Andrologo. Buonasera. Buonasera. Di interferenti endocrini in realtà a Möbius abbiamo già accennato, era a proposito del problema di regolamentare gli integratori nei mangimi animali, ma lei può ricordarci cosa sono? Gli interferenti endocrini sono quella serie di sostanze che agiscono con un effetto che io definirei chiave falsa, per farmi capire dagli ascoltatori, nel senso che agiscono sul recettore dell'ormone, che sarebbe la serratura, come una chiave falsa, facendo scattare il recettore senza che però si avvenga la normale funzione, ma possa avvenire una funzione patologica. Quindi in sostanza queste molecole sono molecole che mimano gli ormoni femminili, ingannano le nostre cellule e si comportano appunto da ormoni femminili. Ma anche le cellule maschili hanno recettori per gli ormoni femminili? Ebbene sì, e purtroppo al di là delle distinzioni sessuali che noi facciamo molto fortemente per quanto riguarda sia l'aspetto fisico sia per quanto riguarda il comportamento, l'embrione quando nasce nella pancia della mamma è indifferenziato e differenzia il suo sesso non solamente sul piano cromosomico, a seconda di chi ha il famoso cromosoma Y in più rispetto a quello X della donna, ma soprattutto per quanto riguarda la prevalenza e non l'esclusività dei recettori ormonali e la prevalenza e non l'esclusività dei tipi di ormoni. Cioè, per dire, voi donne avete una piccola quantità di testosterone e noi maschietti abbiamo una piccola quantità di estrogeni. Queste piccole quantità di ormoni maschile e femminile sono sostanzialmente indispensabili. Pensiamo che nella donna gli androgeni sono indispensabili per la sessualità femminile, ma un eccesso e soprattutto un'alterazione della tipologia di questi ormoni dell'altro sesso presenti in circolo può determinare gravissime patologie. Quanto è aumentata la incidenza dei tumori testicolari? Questo è uno dei problemi forse il più grave. Noi abbiamo la netta sensazione, o meglio, c'è la forte probabilità che questo eccesso di presenza di interferenti endocrini di tipo xenoestrogenico, cioè che minino la funzione degli estrogeni nell'ambiente, che quindi prolunga l'esposizione agli estrogeni in eccesso al soggetto di sesso maschile rispetto a quello che è il periodo della gravidanza, dei 9 mesi in cui l'embrione di sesso maschile è abituato a stare nella pancia della mamma e quindi a vedere estrogeni ma fisiologici, l'incontro con questi estrogeni esterni, ambientali, patologici ha determinato un aumento deciso di 4 volte, soprattutto nei paesi del nord Europa, ma ormai ahimè stiamo anche noi raggiungendo questo primato, di tumori testicolari, tant'è che il tumore del testicolo è diventato fra i soggetti tra i 20 e i 40 anni il tumore più diffuso nella popolazione maschile. Ma cosa si sta facendo per eliminare queste molecole e dove sono? Queste molecole sono presenti un po' dappertutto, sono presenti nei pesticidi, cioè nei disinfettanti che vengono sparsi sui cibi, ma in questo caso vengono rimossi durante le fasi di produzione e di distribuzione. Sono presenti, erano molto presenti purtroppo nell'industria agroalimentare, ma attualmente c'è una normativa che li vieta, ma purtroppo anche involontariamente in tante casi vengono utilizzati dall'industria per conservare meglio, per migliorare la qualità, per migliorare anche la qualità visiva dei prodotti, ottenendo peraltro risultati che sono inattesi, penso anche dall'industria, e in pratica è un inseguimento continuo. Noi scopriamo nuovi interferenti endocrini, li comunichiamo all'autorità, l'autorità ovviamente li vieta nella produzione, l'industria giustamente, saggiamente li modifica, ma il successivo è presumibilmente ancora uno xenoestrogeno, quindi è un po' una ricerca continua. Lei mi parlava addirittura di sostanze che servono a rendere più rossi i gamberetti. Sì, in effetti questa è una storia strana, c'è una sostanza il cui nome chimico è complicatissimo, lo risparmio agli ascoltatori, ma che serve per mantenere il colore ai diciamo crostacei e ai frutti di mare cosiddetti, per mantenere il colore vivace, e questa sostanza appare essere, ci sono due o tre lavori appena usciti in letteratura scientifica, appare essere un sia pur debole xenestrogeno, quindi immagino che prima o poi verrà soppressa la sua utilizzazione, verrà sostituita da un'altra di cui dovremo studiare le caratteristiche. Ecco, io ricordo che per la campagna Amico Andrologo c'è un sito internet www.amicoandrologo.com che sarà accessibile ovviamente anche dal nostro sito web www.mebiusonline.eu. Ringrazio Andrea Renzi e buonasera. Buonasera a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Balenottere azzurre, di questo parlo adesso con Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao, buonasera. Da Boston, come sempre, però la ricerca di cui stai per parlarci è stata fatta dall'altra parte degli Stati Uniti, a San Diego. Sì, nella West Coast, in California, esatto. Va bene, balenottere azzurre, allora? Le balenottere azzurre stanno cambiando il loro canto. In che senso? Lo stile è lo stesso, però il timbro, cioè la frequenza, è più bassa nel corso degli anni. Allora, fermati un attimo che in previsione di ciò mi sono procurato un file del canto delle balenottere azzurre, dei loro vocalizzi, sentiamolo. E dobbiamo dire però che le balenottere emettono in infrasuoni, quindi in suoni che noi non possiamo sentire, però ci sono delle apparecchiature che li traducono puntualmente in un suono che invece possiamo ascoltare, quindi cogliamo il ritmo. Allora tu dicevi è cambiata la frequenza di questi suoni. Nel corso degli ultimi decenni è sempre più bassa. Quindi va meno lontano. E quindi va meno lontano, perché le frequenze più alte vengono assorbite di meno sott'acqua, quelle più alte vengono assorbite di più, quindi viaggiano meno lontano. Eh già. Non viaggiano più quei centinaia di chilometri. Sì, centinaia infatti, tantissimi. Come mai questo? C'è qualche ipotesi? Allora, innanzitutto si è pensato ai cambiamenti climatici. L'acqua è più calda, per cui cambia il modo di trasmettere i suoni. Poi si è anche pensato al rumore dovuto all'uomo negli oceani, che è aumentato. Cioè la presenza di navi che solcano gli oceani. Esatto. Però l'ipotesi per ora più accreditata in realtà è molto più positiva. Una buona notizia. Buona notizia, sì, infatti ci dice da quando sono state bandite le cacce alle balene ci sono più balene, per cui i balenotteri maschi si possono permettere un timbro più basso che viaggia di meno per attirare una compagna, nel senso sono circondati da più femmine vicine, non devono chiamarle da lontano. Ah beh, certo, non c'è bisogno di gridare ad alta voce. Esatto, per cui si possono rilassare, possono avere un canto dal timbro più basso. Perché quando dicevamo prima della presenza di navi molto più numerosa negli oceani è perché, in effetti è vero, gli animali a volte cambiano le loro frequenze. Mi ricordo che in trasmissione abbiamo parlato a proposito di uccelli che vivevano vicino a una zona di traffico, cambiano le loro sonorità perché si devono distinguere da quelle emesse da artefatti umani. Sì, per farsi sentire, però in questo caso si penserebbe che la frequenza dovrebbe essere più alta. Più alta. Farsi sentire al di sopra. E quindi i conti allora non tornano. Senti, ma solo le balenottere azzurre? No, in realtà sembra vero anche per altre balene, inclusa la balena gobba, però è più difficile da analizzare. Ci sono certi solo per la balenottera azzurra. Esatto. E a proposito invece di balena gobba, avrei un'altra notizia, se posso parlare. D'altro genere. Sì, una notizia completamente diversa. Uno studio per cui sembra che la balena gobba mostri dei segni di riconoscenza, quindi delle abilità sociali e di comunicazioni molto articolate. La riconoscenza verso di noi? Sì, verso di noi. C'è stata recentemente una di queste balene intrappolata in una rete per granchi e quando i subacquei l'hanno salvata, la balena dopo essersi allontanata è ritornata e ha dimostrato dei chiari segni di interpretati da noi come segni di riconoscenza, giocando con loro, osservandoli. Però, al di là della nostra interpretazione, è stato scoperto il fatto anche che queste balene, non tutte le balene, però queste sì, hanno dei neuroni fusiformi come quelli che si trovano nel cervello umano e nella stessa posizione, e sono proprio questi neuroni che sono legati a facoltà cognitive e forse anche a facoltà emotive. Di empatia. Non si sa esattamente, è ancora un lavoro in corso, però una notizia interessante. Molto, molto tenera. Anche qui non sembri strano, ma si fanno diverse ricerche per capire in che modo le relazioni uomo-animale sono, per esempio, attraversate da questo tipo di comportamenti, no? Quando si aiuta un animale e si vede se c'è un riconoscimento da parte dell'animale di aver ricevuto questo aiuto. Non è strano. La cosa strana è che si sia fatta con delle balene, ecco, questo è singolare. Sì, è interessante dal punto di vista evolutivo. Va bene, con le balene abbiamo terminato e allora ci sentiamo la prossima volta. Ciao Paola. Ciao, passo e chiudo. Che cosa vuol dire andare in montagna e arrampicarsi su una parete? Vuol dire avere a che fare con una delle forze fondamentali della natura e di tutto l'universo, che è la forza gravitazionale. Ovviamente si ha a che fare con questa forza tirandosi su con molta fatica, ma si ha a che fare in molti altri momenti della scalata, per esempio anche quando agganciati in sicurezza con le proprie corde, e beh, insomma, si molla la presa e magari si fa un volo anche di qualche metro. Le corde stesse sono degli oggetti, dei marchingegni che devono in qualche modo rapportarsi in modo proficuo, virtuoso con questa forza di gravità. Allora, tutto questo può essere studiato e c'è un centro del CAI, del Club Alpino Italiano, il Centro Studi Materiali e Tecniche di Villafranca a Padova, e lì raggiungiamo questa sera Giuliano Bressan. Buonasera Bressan. Buonasera. Presidente del centro, lei è già lì. Preparando la trasmissione con lei mi sono accorto che si potrebbero fare 10 ore e certamente ne faremo anche delle altre per approfondire questi aspetti. Oggi restiamo in quell'intorno molto importante che è quello della sicurezza. Io le vorrei chiedere come prima cosa questo, cioè nei film si vede della gente che vola anche perdendo la presa per 50, 60, 100 metri e si salva. Questo tipo di cose sono esagerate oppure possono effettivamente avvenire quando parliamo appunto di sicurezza in parete? Beh, in alcuni casi possono avvenire se la caduta avviene completamente nel vuoto. E quindi chi cade non va a sbattere addosso alla parete. Siccome c'è un rapporto tra massa e velocità, cioè un corpo che cade e acquista velocità, e beh, il suo peso cresce, si può riuscire a tenere in sicurezza anche con queste cadute così lunghe? Si può tenere in sicurezza in quanto la corda è concepita per assorbire l'energia che si genera nella caduta e ammortizzandola come fosse un elastico, in maniera che le sollecitazioni che arrivano all'alpinista e all'ancoraggio non siano così forti da creare dei danni innanzitutto all'alpinista stesso e ad impedire anche la fuoriuscita dell'ancoraggio. Quindi qui stiamo già entrando appunto in quella che potremmo chiamare la fisica della scalata. Ecco, però normalmente qual è la caduta che si deve prevedere, oltre la quale meglio non andare? Beh, la caduta oltre, cioè non esiste una caduta in quale non si può andare oltre. Diciamo che le cadute peggiori sono quelle che avvengono con fattore di caduta 2, cioè nel caso in cui tra il punto di ancoraggio della corda stessa e l'alpinista non vi siano altri ancoraggi intermedi, per cui la caduta va ad essere sollecitata e distribuita praticamente solo dalla funzione dell'allungamento della corda. Proviamo a spiegare meglio questo, cioè quando si fa la scalata si è sempre in due e c'è uno che sale e l'altro che sta sotto, però una volta la sicurezza era fatta così, di una corda messa intorno alla vita, insomma, no? Era del tutto manuale. Oggi invece è concepita diversamente, no? Sì, esattamente. Una volta la sicurezza veniva fatta facendo passare la corda attraverso il corpo dell'alpinista stesso, o la sicurezza cosiddetta a spalla, che poteva essere diretta o indiretta. Adesso si utilizzano dei freni. Il più comune e più conosciuto è il cosiddetto freno italiano mezzo barcaiolo. In che cosa consiste? Un nodo e un... In pratica è un seminodo che permette lo scorrimento abbastanza controllato della corda, per cui l'energia cinetica che si crea nella caduta viene dissipata in energia termica. Il nodo crea questo effetto di frizione fra se stessa e il moschettone stesso e permette l'assorbimento di energia. Lei mi ha detto non c'è una soglia di caduta, insomma di durata della caduta, però il corpo quando cade e a un certo momento si ferma, beh, c'è anche un problema di arresto brusco che può creare dei traumi interni, no? Per esempio questo negli incidenti di automobilistici è un fattore grave, quando da una certa velocità improvvisamente ci si ferma. Voi come ragionate su questo aspetto? Ecco, le code per alpinismo sono state concepite proprio per non superare la soglia dei 15 G, cioè 15 volte la forza di gravità rapportata a una massa di 80 kg. In pratica, se noi moltiplichiamo 15 per 80, otteniamo 1200 kg. 1200 kg è un valore fisiologico di sicurezza che il nostro corpo può assorbire, può tollerare nel caso appunto di una caduta perfettamente verticale senza attriti per alcuni decimi di secondo. Per alcuni decimi di secondo, che non sono pochissimi. Che non sono pochissimi, ma sono fisiologicamente sopportabili. Voi avete studiato che sono sopportabili. Senta, ma comunque si cada? No, se la caduta è a testa in su, il valore è di 1200. Se cadiamo a testa in giù, questo valore diminuisce notevolmente, perché nella caduta grossi vasi sanguigni, dove affluisce tantissima massa di sangue, ad esempio la parte bassa del nostro corpo, vanno a scendere con grande velocità verso le arterie piccolissime, le vene piccolissime che alimentano la massa cerebrale, per cui potrebbe crearsi delle situazioni di emorragia cerebrale. Le corde, quando io vado a comprare una corda, diciamo, per scalata, posso essere sicuro che abbiano tutte le stesse prestazioni? Le corde attualmente sul mercato sono tutte quante rispondenti a quelle che sono le caratteristiche prescritte dalle normative, e tanto per dirle una cosa, la forza d'arresto, che all'inizio era stata valutata in 1200 kg, adesso è scesa sui 800-900 kg. Giuliano Bressan, grazie, ci sentiamo senz'altro per una seconda puntata su Montagna Sicurezza. Grazie a lei, buona serata. Buona serata, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Più passa il tempo, più questo quoziente di intelligenza, QI, va in crisi come strumento di indagine, poiché il QI dovrebbe misurare l'intelligenza, ora vengono fuori anche le ricerche che misurano come il QI non misura. Maurizio Melis ve ne parla ora e ascoltatelo, perché vi darà anche la soluzione del quiz che con il quoziente intelligenza ha a che fare. Intelligenza e razionalità sono due manifestazioni distinte dell'intelletto, e il test del QI, quello famoso, non intercetta la razionalità. Questo è il riassunto brutale dell'articolo di Kate Stanovich, comparso su Mente e Cervello di questo mese. Il titolo dell'articolo è «Quello che i test del QI non dicono», e Stanovich è, insomma, uno stimato psicologo e studioso di scienze cognitive. Noi di Mebius ci siamo occupati già altre volte della vicenda del QI, per esempio dal punto di vista storico. Torniamo a occuparcene molto volentieri, e per commentare l'articolo di Stanovich abbiamo invitato il professor Paolo Legrenzi, docente di psicologia cognitiva presso l'Università IUAV di Venezia. Ha insegnato in mezza Europa, scrive spessissimo sul Sole 24 Ore. Buonasera Legrenzi. Buonasera. Allora, senta, prima di commentare Stanovich, le chiedo subito, un po' a bruciapelo, lei ci crede o no che i test del QI misurino l'intelligenza? No, la risposta è assolutamente no, nel senso quotidiano di intelligenza. Perché no? Perché è così netto questo? Perché misurano una componente che nella vita quotidiana, sul mondo del lavoro, in famiglia, con gli amici, è pressoché irrilevante. Ricordiamo che i test di intelligenza del QI sono una sequenza di piccole domande, di solito di tipo logico, oppure anche che hanno a che fare con la comprensione verbale. E già dall'inizio, tra l'altro l'inizio della storia del QI è abbastanza drammatico, perché tra fine 800 e inizio 900 il QI fu utilizzato per discriminare sostanzialmente, per esempio, gli immigrati in America. E dall'inizio c'è questo dibattito sul QI, se questi test misurino in qualche modo l'intelligenza, o se semplicemente, come dire, misurino le competenze relative a ciò di cui parlano i test. Io sono molto amico di Stanovich, lo conosco da molti anni, bisogna anche spiegare che nell'ultimo mezzo secolo siamo riusciti a spaccare quello che quotidianamente si dice: guarda, quello è uno stupido, quello intelligente. Siamo riusciti a spaccare questo giudizio intuitivo in tutte le sue componenti. Senta, allora, prima di entrare in Stanovich, mi permetta di lanciare una scheda riassuntiva molto breve. Sentiamo. disrazionalia, ovvero l'incapacità di pensare in modo razionale, sebbene si abbia l'intelligenza per farlo. È il termine con cui Kit Stanovich battezza l'attitudine di molte persone intelligenti a fare cose stupide. Stanovich è professore di sviluppo umano e psicologia applicata all'Università di Toronto. In una recente ricerca ha preso in considerazione il test del QI, il test che misura l'intelligenza, e cercato di capire se un punteggio elevato del QI è anche indice di razionalità. Falso, dicono i dati di Stanovich. Qui il rischio è di cadere dentro a una interminabile disputa su cosa siano la razionalità e l'intelligenza, su quanti tipi di intelligenza esistano e se sia possibile misurarli. Una palude che conviene attraversare in fretta e senza badare troppo ai dettagli. Anche perché Stanovich non cerca leggi assolute, ma piuttosto è interessato ai casi in cui intelligenza e razionalità divergono. Secondo Stanovich, ciò avviene per due cause. La prima si chiama avarizia cognitiva e consiste nella tendenza a prendere scorciatoie mentali. La seconda fonte di disrazionalia è un problema di contenuti. Per pensare e agire razionalmente servono cioè conoscenze specifiche e opportune strategie di ragionamento. Ciò che David Perkins dell'Università di Harvard ha definito mindware. Insomma, l'intelligenza non è un antidoto alla stupidità, o perlomeno non il tipo di intelligenza misurata dal QI. Bene, torniamo in studio col professor Legrenzi. Allora, cosa ne pensa, professore? Mi pare che ci sia un bel po' di distrazionali in giro. Sono totalmente d'accordo con Stanovich, ovviamente. Va anche visto l'aspetto, come posso dire, positivo di tutta questa storia. Perché le scorciatoie di cui parla Stanovich, che in poche parole, in maniera un po' rozza, potremmo dire non pensare a tutte le possibilità che un certo problema ci presenta, tutte le soluzioni possibili, le varie combinazioni, non fare questo ci permette però di andare molto svelti. Quello che lui chiama avarizia, che è giusto, è l'altra faccia della medaglia della possibilità di prendere decisioni veloci. Stanovich ha messo a punto e somministrato un certo numero di individui dei test di razionalità. Uno di questi costituisce il quiz della trasmissione di oggi e lei direi che ha già centrato un po' l'interpretazione del quiz che abbiamo scelto. Io lo leggo e do la soluzione, ne approfitto. Il quiz era questo: una mazza e una palla da baseball costano 11 euro. La mazza costa 10 euro più della palla. Quanto costa la palla? Ecco, qui molti individui, indipendentemente dal QI, rispondono 1 euro. Mentre basta riflettere un attimo per rendersi conto che invece in tal modo i conti non tornano. Il costo della palla è mezzo euro e la mazza costa invece 10 euro e mezzo. La somma da 11 e la differenza è 10. Questo appunto per Stanovich è un esempio di avarizia cognitiva, però in effetti è anche una valutazione che uno può fare molto rapidamente che si avvicina molto al vero. Mi sembra che sia un esempio di quello che lei diceva. Semplificato, esattamente. Si fa un modello molto semplificato del problema e grosso modo si becca la soluzione. In questo caso qui si sbaglia in maniera clamorosa, ma fare dei modelli mentali semplificati, non costruire tutte le possibilità e quindi usare queste scorciatoie sui tempi lunghi, su tutta la classe di problemi possibili, in realtà è conveniente. Certo, se pensiamo soprattutto alla società di raccoglitori e cacciatori, ecco, che allora noi siamo ancora biologicamente, che doveva decidere da che parte scappare quando arrivava il predatore. Una decisione ottima, teoricamente, nel frattempo era morto. Senta, no, vorrei commentare con lei un secondo aspetto che mi sembra interessante, una seconda causa, questa dell'attrezzatura mentale. Cioè Stanovich dice, l'altra cosa di cui bisogna disporre è sia di strategie, sia di competenze, di conoscenze, perché altrimenti noi non riusciamo ad essere razionali per quanto intelligenti. Tra l'altro lui nell'articolo sottolinea due termini che a noi che ci occupiamo di scienza sono cari: pensiero probabilistico, ragionamento scientifico. Cosa ne pensa? Beh, la probabilità è il settore dove c'è più grande differenza tra la razionalità e la vita quotidiana. Quando noi diciamo è probabile che succeda questo e quest'altro, ci riferiamo a eventi singoli: probabile che il prezzo delle case a Milano tornerà a salire. Ecco, questo uso che noi abbiamo della probabilità, un concetto molto controintuitivo, quello scientifico, fa sì che tutti i giudizi di incertezza, che sono la massima parte nella vita quotidiana, siano fatti con diciamo, avarizia, risparmio cognitivo, lo chiami come vuole, rispetto a quella che dovrebbe essere un approccio e una soluzione razionale. Mm-hmm. Questo ha grossi effetti, per esempio, nelle scelte economiche, certo, nelle scelte finanziarie e così via. Certo, certo. Poi l'altro limite per cui, perché tutta la storia di test di intelligenza è stato il contrario, cioè mettere sullo stesso piede di parità persone con conoscenze diverse. Questo è lo spirito della costruzione di test di intelligenza, perché era quello che serviva, certo, questo strumento serviva a questo quando è stato introdotto, per sì, esempio, per selezionare i soldati per guerra mondiale. Questo impoverimento di contenuti che lei deve fare un test di intelligenza, mm-hmm, tranne quelli di conoscenza, diciamo, del lessico e così via, mm-hmm, questo in realtà va contro le condizioni ecologiche, concrete, pratiche, gli scenari in cui nella vita quotidiana uno trova una soluzione intelligente. Quindi lei dice il test non è utile, nel senso misura delle competenze che servono a poco. Ma mi dica una cosa, mi interessa molto. Lei pensa che esista un quid da misurare che si può definire intelligenza logica? Ecco, quindi sono i test che non vanno bene o non è possibile misurarli? Io per anni l'ho misurato nella selezione alle scuole di eccellenza pisane. Ho fatto un test che misurava esattamente questo, la capacità logico-matematica di ragionare in termini astratti. Lo può fare. Però misura una cosa molto precisa, non una cosa che si chiama intelligenza. Misura la bravura, per esempio, di uno studente di studiare discipline di quel tipo, fisica, matematica. Lo misura abbastanza bene questo, eh? Siamo diventati raffinati. Okay. Nella vita questo non conta assolutamente nulla. Va bene, grazie Legrenzi. Grazie a voi. Dunque, adesso sapete che c'è anche un ragno che è diventato vegetariano. E d'altronde il professor Veronesi dice sempre che bisogna evitare la carne. Sapete anche che cos'è il nodo barcaiolo e che bisogna cadere a testa in su, in montagna. E poi sapete anche che le balene blu sono di più. Del quoziente di intelligenza ne abbiamo appena parlato. Non buttatevi giù se il quiz non l'avete azzeccato, perché, come avrete capito, è assolutamente normale. Questo è quanto vi ha raccontato Möbius questa settimana. Buona serata a tutti e a tutte e alla prossima. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.